Prova, mi senti. Bentrovati e bentrovate, amiche e amici di Onda Rossa. E questa è Note Cose Città. Martedì 12 dicembre. E nel martedì scorso ci siamo presi una piccola pausa, ma torniamo oggi con un ospite. E che ospite, faccio fatica ancora. Non vi anticipo nulla, ma vi dico che durante la settimana ci ha scritto perché non voleva più venire, aveva cambiato idea e ci ha detto dicendo mando Patti Smith, poi dopo si è convinto e anche grazie alla notorietà di cui gode la trasmissione e di cui gode soprattutto il buon Fabio. I nostri contatti 06 49 17 50 ondarossa@ondarossa.info e notecosecittà@ondarossa.info. Vi ricordo che ci trovate anche su Twitter e su Facebook. Oh, signor ospite, se parlo lentamente lei mi ha detto che capisce comunque la nostra lingua. E allora noi siamo in via dei Volci 56, dove potete anche venire a ritirare le vostre copie della Scarceranda. Allora in studio con noi il batterista di una band veramente di culto che sta facendo faville nella scena underground. Loro si esibiscono solo in alberghi e in hotel. Il nome del gruppo deriva da due caratteristiche che li rendono veramente unici nel panorama musicale internazionale. Loro suonano solo in alberghi di bassa categoria e per questo loro non vogliono essere pagati, ma si accontentano di una notte nell'albergo dove fanno i concerti. La seconda caratteristica che ha contribuito alla nascita del loro nome è che loro sono tutti quanti dei veri e propri malati di animali domestici, animali da compagnia, cani, gatti, furetti. Lui ha un cagnolino di cui già abbiamo parlato, un cagnolino dolcissimo che si chiama Phil Collins, un barboncino. E allora loro sono i Pets Are Cool, ecco noi Fabio, buonasera Fabio. Buonasera, ciao a tutti, ciao Ale. Come guarda così Fabio? Tu hai firmato un contratto milionario per cui ti paghiamo. E Phil Collins mi nervosisce. Puoi stracciarlo quando vuoi, non sei né il primo né l'ultimo a cui i miei avvocati faranno causa. Allora Fabio, dove andiamo oggi? Oggi torniamo, perché già ci siamo stati a New York City e per la precisione andiamo sulla 23esima strada a 222 West, credo sia l'angolo della 23esima strada. E l'indirizzo che, a cui trovate, adesso lo trovate chiuso, ma trovate il Chelsea Hotel, e un luogo che ha fatto per più di un secolo ha fatto la storia del teatro, della musica, naturalmente quello che ci interessa più a noi, ma anche della letteratura e del cinema. È un posto che ha una storia curiosa, una storia che parte ancora prima della sua fondazione che è del 1884, cioè l'anno in cui viene inaugurato quello che ancora non era un hotel, diventerà un hotel più tardi, nei primi anni del Novecento, credo, 1902 se non vado errato. E la storia curiosa è questa: chi rileva i sette lotti di Chelsea, che è una parte di Manhattan su cui verrà poi edificato il Chelsea Hotel, è un francese che rispondeva a nome di Philippe Hubert. Questo francese sbarca in America con... è un architetto, ma è anche una sorta di inventore, un tuttofare, diciamo così, e lui brevetta un particolare tipo di bottoni autochiudenti, diciamo così, invenzione abbastanza scema sembra oggi, ma che sì, la grip in pratica, autochiudenti se non faceva più effetto, e invenzione abbastanza scema che però colpisce il governo dell'Unione all'epoca, che vuole rendere la vita un po' più comoda ai soldati e americani del Nord America, della parte nord degli Stati Uniti, che stanno combattendo la guerra di secessione contro appunto i sudisti. Grazie a questa, alla vendita del brevetto, Hubert racimola circa $120,000 che gli consentono di andare a New York. Lì qualche anno dopo comprerà, grazie al fallimento di uno speculatore, comprerà e questi sette lotti di cui parlavamo prima, questi su cui verrà edificato l'hotel. Ma la storia curiosa in questo, coinvolgiamo il nostro ospite che non abbiamo ancora detto chi è, Massimo Palma, e la storia curiosa è che questo francese, questo Hubert, era, diciamo così, voleva mettere in pratica, voleva rendere reale l'utopia, le idee di un filosofo francese, giusto Massimo? Giusto, Charles Fourier. E che diceva questo Fourier? Che voleva fare? Fourier era uno di quei socialisti maltrattati da Carletto Marx, un socialista utopista che aveva quest'idea di costruire delle comunità fatte da 1620 uomini e donne, e di farli vivere nei falansteri, in questi grossi palazzi circondati da officine, frutteti. E l'idea era di costruire in realtà delle comunità liberate, comunità che fossero delle piccole bolle sociali in cui... Liberate da cosa, Massimo? In cui liberate dal capitale, vorremmo dire, liberate dai rapporti di dominio, liberate da un sistema oppressivo, e pronti a vivere veramente in armonia, la parola fondamentale, in armonia, capaci di rivivere una magia comunitaria, in cui fosse possibile, per esempio, qualcosa come arte. No, in ognuno di questi falansteri sarebbe potuto vivere, diceva Fourier, un Molière o un Milton, e questo forse è quello che prova a fare appunto costruendo questo palazzo, quel palazzo che poi in un libro di cui parleremo più avanti, e forse per questo viene il nome Palazzo dei Sogni, no? Quindi lui cerca di rendere concreto e reale questo sogno, questo che ci hai appena raccontato, seppur brevemente. E che succede dopo? Succede che appunto Hubert, l'architetto, lo mette su, viene aperto questa la Chelsea Association, l'associazione di la comunità che va a insediarsi nell'hotel, e comincia questo palazzo dei sogni, comincia a prendere forma. Poi beh, la storia magari continua più avanti, anche perché ci porterebbe forse troppo lontano. Comunque qua diciamo che per una serie di circostanze, di motivi, il progetto, diciamo, di Hubert fallisce, e anche se poi i semi che getterà in questo palazzo dei sogni in qualche modo fioriranno più avanti. Però ci allontaniamo troppo da quello che poi è l'oggetto della nostra trasmissione, e quindi la musica. E per parlare di musica abbiamo pensato di cominciare facendolo, raccontando attraverso un personaggio chiave del Chelsea Hotel, che è Harry Smith, di cui sempre Massimo ci racconta qualcosa, del perché vogliamo cominciare con lui soprattutto. Harry Smith è un personaggio decisivo di tutta la musica folk americana dagli anni 50 in poi. Era un personaggio strano, dice Patti Smith su di lui, dice che a malapena 45enne aveva l'aspetto di un vecchio, però conservava l'entusiasmo di un ragazzo, e veniva venerato per quella che è la sua antologia della musica folk americana, un'antologia che lui aveva fatto a partire dalla sua collezione di 78 giri raccolti, strappati a soldati e a vecchie case di campagna in cui lui prendeva e si rubava i dischi. E un giorno voleva trasferirsi a New York. Per trasferirsi a New York c'era bisogno di soldi, va a vendere questi dischi, li va a vendere al capo di una compagnia discografica, che dice: non venderli, rendili semplicemente un'antologia. Diventa l'editor di questa antologia, e così nasce l'Anthology of American Folk Music, che diventerà la Bibbia per tutti, a partire dal 52 diventerà la Bibbia per chiunque volesse comporre musica folk in America. E questo avremo poi modo di capirlo anche più avanti, però adesso cominciamo a mettere un po' di musica, e quindi partiamo proprio da uno dei brani presenti in questa sterminata antologia di Harry Smith. Il brano è di Richard Rabbit Brown e si chiama James Alley Blues. Buon ascolto. Like they used to be, and I'm telling you all the truth. Oh, take it for me. I haven't seen better days, but I ain't putting up with these. I haven't seen better days, but I'm putting up with these. I can have a much better time with these girls, now it's so hard to please. Cause I was born in the country, and I needed to lose. Cause I was born in the country, she thinks I'm easy to rule. She tried to hitch me to a wagon, she wanna drive me like a mule. You know I bought the groceries and I pay the rent. Yeah, I buy the groceries and I pay the rent. She tried to make me wash her clothes, but I got good common sense. I said, if you don't want me, why don't you tell me so? You know that if you don't want me, why don't you tell me so? Because it ain't like a man that ain't got nowhere to go. I been giving you sugar for sugar, let you get sold for salt. I'll give you sugar for sugar, let you get sold for salt. And if you can't get along with me, well, it's your own fault. How you want me to love you and you treat me mean? How do you want me to love you? You keep on treating me mean. My daily thoughts and my nightly dreams. Sometimes I think that you're too sweet to die. Sometimes I think that you're too sweet to die. And another time I think you ought to be buried alive. Allora, questo era James Haley Blues, tratto da questa antologia che racchiudeva, se non sbaglio, molte tracce tra il 29 e il 32 massimo, sì. L'epoca d'oro della musica folk. Tutte irreperibili all'epoca. Tutte irreperibili. E infatti sì, anche la qualità audio penso che si sia sentita anche da casa. E noi continuiamo a parlare del Chelsea Hotel, perché nel 1957 inizia a lavorare lì un ragazzo, all'epoca era un bambino, e il padre in realtà entrò a lavorare lì, lui si trovava insieme al papà, e nel 57 inizia anche lui a dare una mano. Stiamo parlando di Stanley Bard, che diventerà poi un personaggio chiave per questo hotel, perché sarà il direttore fino al 2001, se non sbaglio, e è morto poi quest'anno, il 14 febbraio, all'età di 82 anni. Lui ha una specie di intuizione che renderà poi il Chelsea Hotel anche molto importante, e questo luogo mitico di cui stiamo parlando, perché lui inizia ad accogliere artisti o anche chi aveva ambizioni tali, lettori, musicisti, poeti in erba ancora, li ospita a prezzi molto popolari per quelli che erano poi anche gli standard un po' dell'epoca del quartiere. Lui inizia ad assegnare anche dei piani, per esempio i musicisti li mandava tutti al secondo piano, i turisti al terzo, e le persone che riteneva più instabili, quelle un po' più pericolose, le teneva al piano terra. E uno di questi personaggi che soggiornò lì al Chelsea Hotel è Philox, è un cantautore che all'epoca rivaleggiava insieme a Dylan tra il 64 e il 70. Philox è il cantautore impegnato americano per eccellenza. Lui scrisse un pezzo che ha successo poi John Betts, che fu I Ain't Marching Anymore. Noi non ci ascolteremo questo pezzo, ne ascolteremo un altro un po' che uscì postumo. E a partire dagli anni 60, purtroppo l'alcolismo e la psicosi maniaco-depressiva della quale soffrì lo allontanarono poi dalle scene, finì quasi nel dimenticatoio fino a un certo punto, e poi purtroppo morì suicida nel 76. Riguardo Philox, Massimo? La storia di Philox è abbastanza triste, l'hai appena detto, e nasce tutto da un momento politico in realtà, nasce da tutto dal 68, quando proprio il giorno in cui a Chicago si teneva la convention del Partito Democratico e la anti-convention, la contro-convention, quando tutti sembravano accogliere il suo grido di battaglia, I ain't marching anymore, si riferiva appunto al non faccio più il servizio di leva, e nel pubblico la gente bruciava come le cartoline di leva, le bruciava tutte insieme, sembravano delle candele votive, dissero i presenti. In quel caso però il Partito Democratico portò avanti la sua istanza di appoggio in realtà alla guerra in Vietnam e bocciò la mozione per la pace, e da allora, da quel momento, Hawks non si sentì più impegnato e non marciò più per la sua stessa causa, e si diede addio anche alla sua stabilità, al suo equilibrio, e si diede addirittura un altro nome, perché lo vedevano vagare nelle stanze del Chelsea Hotel, dandosi l'appellativo di John Train. Scrisse The Ballad of John Train, un disco folle riferito al suo alter ego. E allora noi ci ascoltiamo questo pezzo, che si chiama A Toast to Those Who Are Gone, che è un titolo veramente perfetto per me, e lui è Phil Hawks. Buon ascolto. Many's the hour I've lain by my window and thought of the people who've carried the burdens, who marched into strange fields in search of an answer and ended their journeys an unwilling hero. So here's a song to those who are gone with never a reason why, and a toast of the wine at the end of the line, and a toll of the bell for the next one to die. Back in the coal fields of old Harlan County, some talked of a union, some talked of good wages, and they lined them up in the dark of the forest and shot them down without asking no questions. So here's a song to those who are gone with never a reason why, and a toast of the wine at the end of the line, and a toll of the bell for the next one to die. And over the ocean to the red Spanish soil came the Lincoln Brigade with their dreams of a victory, but they fell in the fire of Germany's bombings, and they fell 'cause nobody would hear their sad warning. So here's a song to those who are gone with never a reason why, and a toast of the one at the end of the line, and a toll of the bell for the next one to die. In old Alabama, in old Mississippi, two states of the Union so often found guilty, they came on the buses, they came on the marches, and they lay in the jails, or they fell by the highways. So here's a song to those who are gone with never a reason why, and a toast of the at the end of the line, and a toll of the bell for the next one to die. The state it was Texas, the town it was Dallas. In the flash of a rifle, life was soon over, and nobody thought of the past million murders, and the long list of irony had found a new champion. So here's a song to those who are gone with never a reason why, and a toast of the one at the end of the line, and a toll of the bell for the next one to die. Allora, questo era Phil Hawks, vi ricordo siamo su Note Cose Città e stiamo parlando del Chelsea Hotel, lo stiamo facendo qui con Massimo Palma, e andiamo avanti Fabio, perché questa è zona tua. Andiamo avanti, sì, andiamo avanti ricordando che il Cerciotello, come abbiamo appunto detto anche all'inizio della trasmissione, non è solo un luogo importante, storico per la musica popolare, ma anche un luogo in cui si è fatto teatro, in cui, come vedremo, il cinema l'ha attraversato, ma e soprattutto, forse tanto quanto la musica, è un luogo speciale per la letteratura, un luogo in cui hanno soggiornato grandissimi nomi come Mark Twain, come Edgar Lee Master, hanno soggiornato e scritto nelle stanze del Cerciotello gli esponenti principali della Beat Generation, quindi Ginsberg, ma lo stesso Kerouac ha scritto parti di On the Road nelle stanze del Cerciotello, e William Burroughs ha scritto parti del Pasto Nudo. Insomma, un luogo chiave anche su questo fronte, e il musicista che presentiamo adesso si lega bene ai nomi di questi giganti della letteratura che ho appena elencato, perché parliamo di Bob Dylan, comunque di un Nobel per la letteratura. Dylan soggiorna nel Cerciotello in un periodo fondamentale della sua carriera, cioè più o meno nel 65, diciamo, quando a Svolta Elettrica è avvenuta, e dopo quei 61, dopo la Rolling Stone, e nelle stanze del Cerciotello, nella sua stanza del Cerciotello, Dylan scriverà dei pezzi grandiosi che andranno sul disco che uscirà nel 66, che è Blonde on Blonde, e pezzi che... E un pezzo in particolare dedicato a Sara, quella che diventerà sua moglie, che conoscerà proprio al Cerciotello, perché dormiva, se sono giuste le cose, se sono vere le cose lette, gli aneddoti letti in rete e in altri libri di cui poi parleremo, soggiornava nella stanza accanto a Dylan. E dicevo che di Dylan che ha scritto grandi pezzi, quindi noi abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta su quale far sentire. Alla fine ci siamo trovati tutti d'accordo sul far ascoltare un pezzo meraviglioso che appunto sarà pubblicato su Blonde on Blonde e che risponde al nome di Vision of Joanna. Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet? We'll sit here stranded, but we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. Lights flicker from the opposite loft. In this room the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just Louise and her lover, so entwined. And it's visions of Johanna that conquer my mind. In the empty lot where the ladies be, blind man's bluff with the keychain. All night girls, the whisper of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror, but she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face. visions of Johanna have not taken my place. Our little boy lost, he takes himself so seriously. He breaks of his misery, he likes to live dangerously. And when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me. You got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the wall while I'm in the hall. Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues, you can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks to the countess who's pretending to care for him, saying, name me someone that's not a parasite and I'll go out and say a prayer for him. But like Louise always says, you can't look at much, can you, man, if she herself prepares for him. And Madonna, she still has not showed. We see this empty cage now corrode, where her cape of the stage once it flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which was old. On the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonic is playing, the skeleton keys and the ray. And these visions of Johanna are now all that remain. Più di 7 minuti, ma ne è valsa la pena, e spero almeno. E prima sarà l'emozione per Massimo Palma, sarà l'emozione per Dylan. Ho perso alcuni pezzi, cioè ho perso il fatto che le canzoni che non ricordavo prima, che Dylan ha scritto nel Chelsea Hotel, e tra cui vi c'erano Giovanna, quella che abbiamo scelto, le canzoni che non mi venivano in mente erano Sad Eyed Lady of the Lowlands e Leopard Skin Pillbox Hat. E poi su Sara scriverà un pezzo che si chiama appunto Sara, omonimo, che pubblicherà qualche disco più avanti Dylan. Un'altra cosa che ho scordato di dire, non ci siamo scordati, è che Dylan incrocia Philox, quello, il cantautore folk che abbiamo fatto ascoltare prima, lo incrocia nelle stanze del Chelsea Hotel. Tutte e due hanno vissuto lì, hanno frequentato lo stesso ambiente per un po' di tempo, perché anche Dylan viene dal mondo del folk, della canzone di protesta. Philox è uno dei pochissimi cantanti di quel movimento lì che difenderà Dylan nella sua svolta elettrica, anche se a Newport, nel famoso festival folk del 65, Philox non era invitato, ma è uno dei pochi a difenderlo. L'amicizia, diciamo così, il legame si rompe quando a bordo della propria limousine Dylan farà ascoltare a Philox un pezzo che si chiama One of Us Must Know. Philox gli dice che sta perdendo l'ispirazione e Dylan, per tutta risposta, lo butta fuori dalla macchina, e a mio avviso ha fatto anche bene. Adesso, Ale, dove andiamo? Di chi parliamo? Sì, intanto sono arrivate le chiamate degli eredi Philox, che grazie Fabio. E dove andiamo? Restiamo nel Chelsea Hotel, perché adesso arriva un altro personaggio che ha fatto veramente la storia della cultura popolare americana e non solo, anche quella artistica, perché parliamo di Andy Warhol, che si lega tra l'altro molto bene a Dylan, perché diciamo che non scorreva proprio buon sangue tra i due, si guardavano in cagnesco, talmente in cagnesco che Warhol, la prima cosa che fece con Dylan quando si presentò alla Factory, è fargli un bello screen test, metterlo 3 minuti e mezzo di fronte alla cinepresa e vedere la reazione del volto di Dylan, che fu molto carina. È disponibile questo filmato, è disponibile tutt'oggi. Sì? Sì, si può vedere su YouTube lo screen test di Dylan. Era quello che faceva con tutti, Warhol: osservare, far coincidere la sua arte con la vita cosiddetta reale e far diventare tutti quanti attori. E lì Warhol tra l'altro ci registrò anche un film che si chiama Jersey Girls, che racconta le storie di chi abitava e frequentava questo albergo. Lui era un ospite fisso, perché la sua Factory praticamente si riuniva lì, e la protagonista di questo film era una ragazza che già era apparsa come comparsa anche in un film di Federico Fellini, un film abbastanza famoso, mi pare La dolce vita, una cosa del genere, un filmino così, proprio l'ultimo arrivato. E che ci dici di Nico? Nico fu tra le Chelsea Girls la protagonista destinata a rendere celebre questo nome anche sotto forma musicale. A proposito della dolce vita, il film fu chiamato proprio Una dolce vita fatta in casa, oppure L'Iliade dell'Underground, dal settimanale Newsweek. Erano 3 ore e 15, 3 ore e 15 abbastanza girate da Andy Warhol, quasi che era abituato a film di 24 ore, quindi fu quasi un cortometraggio per Andy, e caratterizzato da che cosa? Dallo schermo diviso in due, in cui c'erano vari personaggi in stato di alterazione più o meno evidente. Si ricorda un Eric Emerson completamente fatto, oppure un Ondine, che era un attore dal nome in realtà italiano, che non trovò nulla di meglio che andare a travestirsi, a proclamarsi papa. Nel lato destro dello schermo, nel lato sinistro, appariva questa bellissima bionda tedesca, Christa Pefgen, che si faceva chiamare da tutti Nico. E Nico, che in quegli stessi mesi in cui girava al Chelsea Hotel aveva registrato con i Velvet Underground il primo celeberrimo album prodotto da Andy Warhol, e che si sarebbe poi andata a fare un inizio di carriera solista al locale Il Dome, dove, accompagnata da alcuni chitarristi di successo come Lou Reed, come Tim Buckley, come Tim Hardin, cantava accompagnata da costoro ogni sera. Tra questi c'era anche quello che era il suo ragazzo dell'epoca, che era Jackson Browne, autore di una canzone che è diventata una canzone che si chiama These Days, e che è contenuta nell'album di Nico, che prende il nome proprio Chelsea Girl, e noi ce l'ascoltiamo. E questo è Nico, These Days. Buon ascolto. that I forgot to do. And all the times I had the chance to, I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days. These days I seem to think about how all the changes came about my ways. And I wonder if I'd see another these days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been bellissima This Days in Icono. Siamo su Radio Onda Rossa, queste note cose città, e andiamo un po' veloci, ci scusiamo con l'ascoltatore che ha fatto un trillino poco fa, ma abbiamo ancora un sacco di musica, un sacco di storie da raccontare, quindi andiamo un po' dritti, un po' più veloci, dritti alla meta. Sì, adesso l'autore che presenteremo adesso è quello che ha scritto forse la canzone più celebre sul Chelsea Hotel, e quindi avrete già capito che parliamo di Leonard Cohen, che si lega benissimo alla storia che abbiamo appena raccontato, cioè più che a Warhol, a Nico, perché in quei concerti di cui parlava prima Massimo, nel locale che si chiama Dom, nome che non riuscivo a memorizzare, e Leonard Cohen è tra gli spettatori. Racconterà più avanti, racconterà in qualche intervista di quanto rimase colpito, atterrito dalla bellezza di Nico, rimase senza fiato, e a Nico lui dedicherà una canzone splendida che si chiama Take This Longing. Ma noi in questo caso non scegliamo questo pezzo, ma appunto scegliamo il pezzo più ovvio, quello che prende il nome dallo stesso hotel, che si chiama Chelsea Hotel Number 2. E buon ascolto. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Now, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Allora, questa era la splendida Chelsea Hotel numero 2, di cui parleremo tra un attimo. E prima, Massimo, che ci dici del pezzo che ha nominato Fabio prima? Take This Longing era tratto dal New Skin for an Old Ceremony di Leonard Cohen ed era appunto dedicato molto tempo dopo a Nico. E Cohen trova in Nico un amore irraggiungibile, diciamo, uno struggimento, dice delle cose che tra l'altro sono incredibilmente vere, a pensare a questa autrice che è stata riscoperta anche da un film molto recentemente. Chiunque ti abbia desiderato ha trovato ciò che vorrà ancora e ancora, la tua bellezza perduta per te stessa, così come era perduta per loro. Prendi questo desiderio dalla mia lingua. Ecco, questo testo molto ispirato di Leonard Cohen su Nico è... fa da contrasto con il pezzo sul Chelsea Hotel che ha come protagonista tutt'altra. Invece un'altra cantante che anche lei era un ospite fissa di questo hotel, e stiamo parlando di Janis Joplin. E successe questo, che Leonard Cohen risiedeva, dormiva nella stanza 424. Questo è proprio il racconto che lui anni dopo ha fatto, anche pentendosi un po' di questa storia e della canzone che ha scritto. Quindi lui era nella stanza 424 e una notte verso le 3 del mattino stava rientrando. Lui era famoso tra gli ospiti dell'hotel perché l'ascensore che portava i piani bisognava utilizzare una chiavetta, e adesso non sappiamo bene il perché, comunque, che Cohen riusciva a spadinare l'ascensore, sostanzialmente, questo era il punto. Una notte incontra... Il punto è come stavano gli altri, non riuscivano, esatto, infatti, a girare la chiave. E una notte incontra Janis Joplin, che era uscita a fare la notte brava di Manhattan, e si incontrano in ascensore. E Joplin chiede a Cohen se conoscesse un tale Christofferson, che era un cantante. Eccolo, sono io. Eccolo. E sì, esatto, Cohen gli disse proprio: eccolo, sì, sono io. E Joplin dice: ma veramente pensavo fossi più alto. È stata una malattia. È stata una malattia, sono stato male. Gli disse così a Leonard Cohen, e Janis Joplin incredibilmente ci credette, e Cohen la invitò a passare la notte nella sua stanza, appunto la 424. Joplin era nella stanza 411, quindi il tempo di prendere lo spazzolino e le cose necessarie alla notte. E quindi, Massimo? E a quel punto resta la memoria di quella straordinaria notte sull'unmade bed, sul letto disfatto della stanza di Cohen. in quel piccolo dettaglio che viene sciorinato da Cohen nelle parole della Chelsea Hotel Number 2, cioè you were famous, your heart was a legend, eri famosa, il tuo cuore. E qual era il cuore? Era la pezzo di cuore, the piece of my heart. E allora noi ce l'ascoltiamo, The Piece of My Heart, e malgrado, qui bisogna anche fare un appunto, malgrado un suono di chitarra dal quale ci dissociamo, però noi ci andiamo ad ascoltare questo pezzo che comunque è strepitoso. Buon ascolto! Questa era James Joplin, Piece of My Heart. Vi ricordo che siamo a Onda Rossa e questa è Note Cose Città. Intanto sulla sulla chat di classe di mio figlio arrivano 64 messaggi per la scelta del regalo alle maestre, quindi io vi invito anche a chiamarci e darci qualche suggerimento, così chiudiamo sta pratica. Andiamo avanti, Fabio. Andiamo avanti parlando, citando un'altra delle arti, diciamo così, che hanno trovato casa e dimora al Chelsea Hotel, cioè il cinema. E abbiamo detto di Warhol, che ha girato il suo Chelsea Girls tra le stanze del Chelsea Hotel. E una curiosità è quella che a lungo, per 6 o 7 anni, se non vado errato, ha vissuto tra gli anni 60 e 70. Quando era in America ha vissuto al Chelsea Hotel Stanley Kubrick. Al Chelsea Hotel ha soggiornato anche Arthur C. Clarke, che è lo scrittore, quello che ha scritto 2001 Odissea nello spazio, film di Kubrick. Tra gli uomini del cinema, tra i registi, uomini e donne del cinema, tra i registi che qui hanno soggiornato, c'è anche Miloš Forman. Miloš Forman, tra le tante cose probabilmente migliori che ha fatto, gira un film che in qualche modo ha un legame con il Chelsea Hotel, con Broadway, non troppo lontana da Chelsea, appunto, e cioè Air, il musical storico. Fabio, raccontaci. No, io lo detesto abbastanza. Il musical del fine anni 60, del 68, mi ha detto prima Massimo. Il film invece di Forman è un film del 79. Tra la colonna sonora abbiamo, tra gli artisti che partecipano alla colonna sonora, abbiamo scelto Nina Simone, che non c'entra molto, cioè lei non c'entra col Chelsea Hotel, c'entra la canzone per il motivo che vi ho appena raccontato. La canzone di Nina Simone si chiama Ain't Got No, I Got Life. Buon ascolto. Got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. Allora, questa era Nina Simone. Andiamo avanti. Andiamo avanti con Patti Smith. Andiamo avanti con Patti Smith, che arriva a New York il giorno in cui l'uomo cammina sulla luna, il 21 luglio del 1969, e trova rifugio con il suo amore, amico amante dell'epoca, Robert Mapplethorpe, il fotografo, al Chelsea Hotel, dove entra grazie all'incontro con il suo omonimo Harry Smith, che era stupefatto che quella ragazzina magrolina e altissima conoscesse Bertolt Brecht, e lì soggiorna la stanza 1017, la più piccola del Chelsea Hotel. quel luogo diventa per Patti Smith il luogo di una istruzione stupefacente, dice lei. È un luogo dove incontrare personaggi come lei, personaggi al limite della società, i Nigger of Society, direi in una canzone successiva. Per il momento non è ancora una cantante, si sente una poetessa, ed è un giorno di febbraio dell'inverno del 1971 che in una chiesa, in St. Mark Church di New York, legge il suo messaggio di anarchia positiva, così lo chiamerà, Oath, giuramento. Lo legge in una serata che dedica ai criminali di tutti i tempi, da Caino a Jean Genet. La poesia fa così, finisce così. Dunque, Cristo, ti sto salutando. Ti licenzio stasera. Posso far splendere la mia luce da sola. E anche il buio va bene lo stesso. Sei stato appeso per mio fratello. Sei morto per i peccati di qualcuno, non per i miei. Queste parole si unirono poi alla cover di un pezzo dei Them, Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care, the words are just rules and regulations to me. Me, I walk in a room, you know I look so proud. I'm moving this here as my fear, where anything's allowed. I'll go to this here party, and I just get bored until I look at the window. Oh, E dopo gli esponenti della Beat Generation e dopo i grandi del rock, entra in scena il Cersei Hotel e anche il punk rock. E Patti Smith, diciamo che fa da cerniera perfetta per introdurre quest'ultima parte della puntata. E il punk segna anche per il Cersei Hotel l'inizio della sua decadenza. E l'epoca d'oro, diciamo, sta passando. E se va trovata una data, ed è forse una delle cose più note legate al Cersei Hotel, se va trovata una data di questa fine del sogno, di questa decadenza, è l'omicidio di Nancy. Cioè, al Cersei Hotel soggiornano Sid Vicious e la sua compagna Nancy, e il 12 ottobre del 78 è il giorno in cui Nancy morirà appunto per mano di Sid Vicious. Sid Vicious, che troverà lui stesso la morte in attesa di giudizio pochi mesi dopo per overdose, sempre nella stanza numero 100 del Cersei Hotel. Abbiamo pensato di farvi ascoltare in questo caso My Way di Sid Vicious, non ce l'abbiamo fatta perché è la canzone che porta molto denaro in tasca di Sid Vicious, e soldi che lui spenderà in eroina di fatto e in altre droghe, chiudendosi nella sua stanza con Nancy. L'epilogo, e certo non è legato alle droghe, ma l'epilogo è quello che vi ho appena raccontato. Noi abbiamo preferito, come canzone da mettere in questo momento della scaletta, uno dei soli due pezzi che Sid Vicious suonerà in studio con i Sex Pistols, abbiamo scelto tra i due, e uno era Bodies, l'altro era Holidays in the Sun. Abbiamo scelto quest'ultima. Buon ascolto. E allora questi erano i Sex Pistols e noi passiamo da bassista a bassista, se di bassista parlando di Sid Vicious possiamo parlare, perché arriviamo ai Ramones, a Didi Ramones per l'esattezza, che anche lui è stato un ospite del Chelsea Hotel. Lui ha scritto una canzone che è uscita in un album, Fabio, di quando era? Di... album di metà anni 80, non ricordo il nome, ora l'album minore dei Ramones. Okay. Sì, un album minore dei Ramones, in cui ha scritto questo pezzo che si chiama Love Kills, e in cui racconta quello che sostanzialmente è successo a Sid e a Nancy, giusto Massimo? Giusto, un testo che rileggendolo oggi ha delle sue ambiguità forti, molto ambiguo. Perché leggiamo che sì, come Romeo e Giulietta avevano fatto un patto di morte, come l'elastico che usavano per gli usi che possiamo immaginare, Sid e Nancy erano nati per perdere, were born to lose. È un testo che insomma oggi leggiamo forse con qualche riserva in più di quello che poteva sembrare all'epoca. Adesso, dice Didi Ramones, lei sta riversa in un lago di sangue. Love Kills. E questa è Love Kills. E tra l'altro, scusate, tra l'altro sì, una curiosità, Didi Ramones ci ha scritto, intanto ci ha scritto un libro sul Chelsea Hotel, una specie di novella in cui lui quanto credo ci stanno dei mostri e lui pensa di stare all'interno, sì, della Chelsea stanza Horror Hotel, Chelsea credo Horror si, Hotel. Si chiami. Un'altra curiosità che Didi Ramones è finito sulla copertina di un libro di architettura, credo, dedicato ai balconcini in ferro del Chelsea Hotel, che fu costruito come stile tardo vittoriano, mi sembra di ricordare. Tra l'altro, appunto, forse è il caso di ricordare che tutta la storia del Chelsea Hotel è stata raccontata e benissimo da Cheryl Tippins nel suo Chelsea Hotel, Viaggio nel Palazzo dei Sogni, tradotto in italiano da molto bene da Anna Lovisolo per EDT qualche anno fa. Ce l'ascoltiamo? Ce l'ascoltiamo. E allora, questo è Love Vai. Kills Ramones. Questi erano i Ramones con Love Kills. Come abbiamo detto prima, e con Patti Smith, con soprattutto con l'omicidio di Nancy, insomma, comincia una lunga decadenza del Chelsea Hotel, lunga decadenza che attraversa gli anni 80, gli anni 90 e ci porta di fatto fino ad oggi. Oggi il Chelsea Hotel è chiuso perché è stato rilevato dopo la morte del proprietario da un magnate di Las Vegas. Non si capisce bene che destino avrà, insomma, se che cosa potrà diventare, perché immaginiamo gli interessi sopra una che girano intorno a un luogo del genere, con una storia del genere, in un posto così centrale dentro una città come New York. E quello che sappiamo è che ancora vivono lì dentro, in degli appartamenti con degli affitti super convenienti, diciamo così, perché stipulati in altri anni. 58 persone che hanno trovato come sindacalisti, diciamo, di grido, persone come Tom Waits e Iggy Pop, che lì hanno soggiornato e che non vi abbiamo raccontato perché la puntata sarebbe durata troppo a lungo e chissà se non ci torneremo sul Chelsea Hotel. E tra... Sentite sempre così, ma poi non lo fate però. Vedremo questo. Tra i personaggi più noti che hanno vissuto lì in questi ultimi 20-30 anni, certamente va citata Madonna che ha girato parti del suo film Sex all'interno di una stanza del Chelsea Hotel, ma invece tra i personaggi, diciamo, musicali un po' più vicini a noi e che abbiamo scelto anche per farvi sentire qualcosa di un po' più moderno, diciamo così, ci sono i Libertines, come si pronuncia? Libertines. Mamma mia. Sì, scusate. Quanta qualità stasera. Poca qualità, grande qualità del nostro ospite, spero grande qualità nei pezzi scelti. Comunque di questo gruppo, che non nominerò più, abbiamo scelto il pezzo che si chiama, ed è anche adatto come titolo forse alla puntata che abbiamo fatto, Time for Heroes. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks, set the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, how I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones, build bones. Knows what I really know, it's eating. It's chewing me up, it's not right for young lungs. Keep me coughing up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. Stale chips are up and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And aside, it's uncle with pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? Now you've got it all. All the cedars have seen time will strip it away. A year and a day, I'm Bill Bones knows what I mean. More distress incites the mat of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my love. E allora questi erano i... Vai Massimo! Libertines! Grandissimo! E allora noi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio all'interno del Chelsea Hotel e chiudiamo con un brano che è poi il brano dal quale siamo partiti, Fabio. Sì, sì, il brano, cioè, chiudiamo il cerchio, diciamo così. Il brano che abbiamo ascoltato all'inizio era una concept puntata. James Alley Blues. E questo pezzo è un pezzo suonato dai Wilco, in realtà dal solo Jeff Tweedy insieme a Roger McGuinn dei Birds, che rifanno lo stesso pezzo, e quindi ci ricolleghiamo all'inizio a Harry Smith e ci sembra un bel modo per uscire. E che altro dire su... No, noi diamo appuntamento allora alla prossima settimana, che sarà l'ultima puntata dell'anno. Ce ne andremo all'interno del 2017, lo useremo un po' come pretesto per farvi ascoltare un sacco di musica che ci è piaciuta durante quest'anno, che è uscita, un sacco di novità. Ringrazio chi c'è stato all'ascolto e chi ci ha fatto degli squilli al telefono, però ovviamente sono le 9:20, non possiamo andare troppo oltre, ma ringrazio soprattutto colui che ha dato veramente tanta qualità alla puntata, Massimo Palma, che vorrei anche che concludesse leggendo qualcosa e prima di farvi ascoltare il brano degli Ubilco. Parliamo di Patti Smith, Just Kids, la sua autobiografia, il racconto della sua vita anche al Chelsea Hotel con Robert Mapplethorpe, dove c'è una definizione di Chelsea Hotel che è destinata a restare. Abbiamo parlato di Pete Doherty adesso con i suoi Libertines, e sembra quasi un ritratto di lui e di tutti coloro che hanno attraversato la hall del Chelsea Hotel in più di 100 anni di vita. L'albergo è un disperato, vibrante rifugio per una schiera di figli talentuosi e puttani provenienti da ogni gradino della scala sociale. Mendicanti con la chitarra e bellezze strafatte con indosso abiti vittoriani, poeti drogati, drammaturghi, registi spiantati e attori francesi. Chiunque passi di qui, qui è qualcuno, e nessuno nel mondo là fuori. James Alley Blues. Times ain't now nothing like they used to be. But times ain't now nothing like they used to be. I'll tell you the truth, won't you take my word from me? I've seen better days, but I ain't putting up with these. I've seen better days, but I ain't putting up with these. I had a lot better time with the women down in New Orleans. I was born in the country, so she thinks I'm easy to lose. I was born in the country, so she thinks I'm easy to lose. She wants to hitch me to a wagon and drive me like a mule. I bought her a gold ring and I paid the rent. Oh, I bought her a gold ring and I paid the rent. She wants me to wash her clothes, but I got good common sense. If you don't want me, then why don't you just tell me so? If you don't want me, then why don't you just tell me so? It ain't like a man got no place to go. Give me sugar for sugar, but all you want is salt for salt. I give you sugar for sugar, but all you want is salt for salt. If you can't get along with me, well, then it's your own fault. You want me to love you, but then you just treat me mean. Want me to love you, but then you just treat me mean. You're my daily thought, and you're my nightly dream. Sometimes I think that you're just too sweet to die. Sometimes I think that you're just too sweet to die. the times I think you ought to be buried alive.